sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Maltempo in tutta Italia, neve e pioggia al nord, Roma in ansia per il livello del Tevere. E per le piogge, nuovo crollo a Pompei, cedono due muri, si riaccendono le polemiche. In piazza a Roma il mondo dell'edilizia, insieme per la prima volta imprenditori e sindacati. WikiLeaks, Hillary Clinton dal Kazakistan, Silvio Berlusconi è il miglior amico degli americani. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Forti piogge al sud, neve al nord a bassa quota. Partiamo dal maltempo, partiamo da qui. Nevica al nord, ma le maggiori attenzioni della Protezione Civile sono sul centro e riguardano piogge e fiumi. Nelle ore in cui molte regioni d'Europa subiscono i disagi d'un anticipo d'inverno, è questo in sintesi il quadro del bel paese sul fronte meteo. A preoccupare sono diversi corsi d'acqua gonfi per le precipitazioni che stanno continuando. Nel Lazio l'Aniene è esondato in aree non urbanizzate a Trevi, Subiaco e Agosta, con le zone di Pratolungo, Ponte Mammolo e della Tiburtina sotto osservazione. Anche il Tevere è sotto stretto controllo. Titti Postiglione della Protezione Civile Nazionale. Lo monitoriamo 24 ore su 24 e ci prepariamo qualora ci fossero dei problemi, che al momento evidentemente non ci sono. Nella zona di Rieti è esondato il Velino, nel Frusinate il Liri è esondato a Monte Avanti. Valle di Sora, nell'Umbria sono a rischio Chiascio e Corno, nelle Marche l'Esino è straripato a Genga. Quanto al nord la situazione appare più tranquilla, neve da ieri su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in mattinata anche su Milano e la Lombardia, mentre in Emilia ha ripreso a nevicare dopo un giorno di tregua. Sulle autostrade il traffico resta regolare con qualche rallentamento, ma naturalmente è consigliata prudenza. Paolo Piacenza, Radio 24, il sole 24 ore. E lo avete sentito anche nel servizio, all'estero non va meglio. In Gran Bretagna state sentendo alcune testimonianze. C'è stata la peggior nevicata a novembre degli ultimi 30 anni. Sono stati chiusi Gatwick e lo scalo di Edimburgo. In Francia l'aeroporto di Lione e in Svizzera quello di Ginevra, il secondo del paese. Gravi ritardi in molti altri scali del continente, in particolare in Germania e nel nord della Spagna. Sempre in Gran Bretagna la situazione è più grave, perché sono state chiuse anche gran parte delle scuole. E sarà colpa delle forti piogge, ma a Pompei purtroppo c'è stato oggi un nuovo crollo. Altra zona, altri crolli. A Pompei si sono sbriciolati questa mattina altri due muretti, due pareti che vengono definite prive di importanza. Questa volta è toccato alla casa del Lupanare Piccolo. La zona non è la stessa degli ultimi crolli, ma la causa sì, sempre le infiltrazioni d'acqua, complici anche le radici di un albero. Nulla di grave, episodi ordinari vengono definiti dai tecnici. A preoccupare però è anche il fatto che la zona sia appunto diversa, segno che la sofferenza di Pompei è vasta. Colpe delle piogge, dice la soprintendente Jeanette Papadopoulos. La manutenzione si fa costantemente, però chiaramente va calibrata anche sulle situazioni di fenomeni di pioggia che sono probabilmente un po' al di là di quelli che fino adesso si sono verificati. Per domani è già convocata una riunione. Il ministro Bondi proporrà l'ipotesi di una fondazione che si occupi del sito, una partita questa che sembra solo all'inizio, mentre la procura ora vuole capire come sono stati spesi i soldi per i restauri. Anna Migliorati, Radio 24, il sole 24 ore. E sul nostro sito radio24.it trovate pubblicate le pagine del registro dei crolli di Pompei al vaglio della magistratura e le fotografie delle zone a rischio. La sezione è quella del programma Storiacce. Un mese fa esatto l'alluvione in Veneto, dopo la mini proroga per gli acconti fiscali, ieri il governo ha rinviato al 20 dicembre prossimo il pagamento dei contributi previdenziali per le aziende colpite dall'alluvione. Ma gli industriali, che dopo le forti piogge avevano minacciato la rivolta fiscale nel caso non fossero arrivati gli aiuti, chiedono interventi di più ampio respiro. Il presidente di Confindustria Vicenza, Roberto Zuccato, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Viviamo ancora nell'incertezza. Ovviamente siamo contenti dei primi interventi, che c'è stata una proroga fino al 16 degli adempimenti fiscali dell'IVA e fino al 24 dell'INPS, però sono interventi momentanei, temporanei. Normalmente un territorio che subisce questo tipo di evento catastrofico ottiene una sospensione di almeno 6 mesi. Questa proroga chiaramente non è sufficiente. Io mi auguro che sia dovuta al fatto che non si riesce a calcolare bene quale può essere il gettito delle 3.300 imprese che sono state censite e danneggiate. Siamo fiduciosi che intervenga quanto prima la sospensione di 6 mesi, perché questa temporanea di pochi giorni non risolve chiaramente il problema. Interventi più a lungo termine per darvi respiro? È necessario che ci siano interventi a lungo termine. Adesso che si sono focalizzate le aziende, è importante che quelle aziende che sono state danneggiate abbiano un tempo sufficiente per poter ripartire e per poter ovviamente ottemperare quelli che sono i loro impegni e i loro obblighi. Però certamente 10, 15, 20 giorni non risolvono solamente il problema. Qui siamo ancora sotto l'acqua, speriamo che questa volta la situazione non si ripeta quella di un mese fa, però stiamo vivendo ancora l'emergenza. Soprattutto queste aziende hanno bisogno di ripartire e ancora molte non ci sono riuscite a farlo. E nonostante il maltempo in tutta Italia, come avete sentito, vanno avanti le proteste, quelle degli studenti, dei quali parleremo tra poco in primo piano. Oggi infatti ci sono le proteste romane dei costruttori, che sono scesi in piazza insieme ai sindacati. Ci racconta tutto in diretta dalla capitale Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Il governo e la politica devono mettere al centro della loro agenda un piano strategico con una grande prospettiva per far ripartire il settore. È una voce unica a rivolgersi alle istituzioni, imprenditori e lavoratori edili fianco a fianco questa mattina a Montecitorio per richiamare l'attenzione su un comparto in particolare difficoltà. 14 le sigle promotrici, dal Lancio alle cooperative, da Confartigianato a Federcostruzioni, e i sindacati poi Fillea CGL, Filca CISL, Feneal, UIL. Non ci arrendiamo al declino del settore, siamo qui per sottolineare la gravità della crisi, ha detto il presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti. Ascoltiamo le sue parole. Vogliamo che l'edilizia sia rimessa al centro delle strategie del governo e della classe politica, che ascoltino le nostre istanze, perché siamo convinti che l'edilizia darà un grande contributo alla ripresa dell'economia del paese, modernizzandosi, facendo i sacrifici necessari, ma ci vuole un progetto. In piazza, come detto anche il sindacato, abbiamo perso 250.000 posti di lavoro, denunciano i rappresentanti dei lavoratori. Secondo Bonanni CISL è necessario dare una nuova spinta ad un settore strategico, quello delle opere pubbliche. Sentiamo. Fare opere pubbliche significa anche mettere in moto l'economia, è la classica leva anticiclica per combattere una economia stantia. L'edilizia deve tornare ad essere tra le priorità dell'agenda politica, commenta la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E come dicevamo, anche gli studenti restano in piazza in protesta dopo l'ok ieri alla Camera al DDL Gelmini. Alessandro Milan ha intervistato questa mattina Luigi Frati, rettore dell'Università di Roma La Sapienza. Il suo commento sulla riforma è positivo. Ma io penso che la riforma abbia un grande merito, quello di cercare di mettere al centro del sistema la meritocrazia come sistema di valutazione sia delle istituzioni che dei professori che degli studenti, con alcuni problemi che sono ovviamente principalmente quello finanziario, cioè che c'è una ricerca del 2004 di Nature che dice che la collocazione internazionale dell'università dipende direttamente dai finanziamenti dell'università e ricerca. Si sa che l'Italia spende la metà dell'Unione Europea. Quindi è il futuro che dovrà dire se questa riforma poi avrà applicazione vera oppure invece rimarrà sulla carta. E l'altro problema è adesso collegato al destino dei 26.000 ricercatori che hanno spazio limitato in progressione di carriera e il sistema di incentivazione degli studenti. Però diciamo lo spirito è certamente buono. E diamo uno sguardo adesso alle borse, lo facciamo con la nostra Deborah Rosciani. Deborah. Sì, buongiorno. Allora, intanto ti do una notizia che vedo adesso dalle agenzie Annarita, perché sulla crisi vedo un flash, non ho ulteriori dettagli. Si è riunito al Tesoro il Comitato di Stabilità Finanziaria. Probabilmente si esamina anche la tensione sul mercato obbligazionario delle ultime ore, con gli spread sui titoli di Stato italiani che sono cresciuti di oltre il 2% rispetto ai titoli tedeschi. Una reazione appunto del mercato che era stata considerata un po' convulsa, esagerata da parte anche del mondo politico italiano, per cui è probabile che si parli anche di questo, ma non abbiamo ulteriori dettagli. Detto questo, oggi la borsa tenta il rimbalzo dopo i cali enormi degli ultimi giorni, un rimbalzo che appare un po' più convincente di quello che si tentava di mettere a segno per esempio nelle prime battute della giornata di ieri o dell'altro ieri, che poi infatti è fallito nel corso della giornata, delle giornate. Parigi più 1%, Francoforte più 1,79%, Londra più 1,67%, Milano più +1,34 sul FTSE MIB, ribalzano tutte le banche e il mercato appare positivo nonostante Standard & Poor's abbia reso noto ieri di aver messo sotto osservazione il giudizio sul Portogallo con implicazioni negative. Recupera anche l'euro al di sopra della soglia di 1,31. Anna. Grazie Deborah. Ieri invece era stata una giornata di cali per l'euro. Ospite di Maurizio Belpietro, il presidente di Impregilo e di Banca Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, ha parlato così questa mattina della situazione della crisi in atto, commentando in particolare la proposta di congelare i BOT. L'ipotesi non è assolutamente percorribile, in quanto l'Italia non è in queste condizioni. L'Italia ha un risparmio privato fortissimo. I titoli spagnoli di altri paesi sono per la maggior parte in mano a speculatori, investitori e banche d'affari statunitensi. Il debito italiano è in mano alle famiglie e agli imprenditori italiani per oltre il 75-80%. Questi credono nel loro paese, credono nelle loro attività, non lasceranno mai i titoli di Stato, anche perché non saprebbero dove andare a mettere questi soldi. Quindi questo è un rischio assolutamente folle. Chi ne parla non conosce il mercato, non vuol bene al nostro paese e si mette in una prospettiva di delinquenza economica. E dalla Spagna sulla crisi intanto arrivano nuove misure di austerity, le ha annunciate il capo del governo Zapatero. Si tratta di misure che includono la sospensione dei pagamenti di disoccupazione per 426 euro al mese per i disoccupati di lungo termine. Zapatero ha inoltre annunciato al Parlamento la privatizzazione parziale della lotteria nazionale e degli aeroporti, oltre che una riduzione delle imposte sulle piccole e medie imprese. E intanto in Italia ci sono tante aziende che ripartono dopo la crisi, ve le raccontiamo ogni giorno. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2009 abbiamo purtroppo perso un 22% e nel 2010 stiamo guadagnando a fine ottobre il più 160%. A poter vantare questo risultato è Paola Volponi Stamerra, titolare di FAP Italia, un'azienda che produce pelletteria, dalle cinture ai portafogli. Sede a Trezzo sull'Adda nel Milanese, 15 dipendenti. Per uscire dalla crisi l'azienda ha subito una piccola rivoluzione, come spiega la titolare. Noi prima eravamo degli esecutori, eravamo dei terzisti per conto di altri fabbricanti e ci siamo trovati senza lavoro a causa della crisi e quindi a dover mettere in atto, a dover praticamente stravolgere tutto quanto c'era finora. Abbiamo creato nostre proprie collezioni e siamo andati a venderle direttamente. Abbiamo fatto delle fiere, abbiamo investito tutti i nostri averi nelle fiere, nella vendita diretta, abbiamo viaggiato molto per cercare nuovi clienti. Quindi, a parte gli sbagli che all'inizio si fanno, adesso a partire dal giugno di quest'anno stiamo appunto incrementando del 160%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:18, i nostri titoli in piazza a Roma, il mondo dell'edilizia insieme a imprenditori e sindacati. Maltempo in tutta Italia, neve e pioggia al nord, lo avete sentito anche durante Strada in diretta, Roma in ansia per il livello del Tevere. E per le piogge, nuovo crollo a Pompei, cedono due muri, si riaccendono le polemiche. L'ultimo saluto del rione Monti a Mario Monicelli, alla Camera Ardente anche il capo dello Stato. E ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo dall'ultimo titolo che avete ascoltato, il saluto laico per Mario Monicelli, prima nel rione Monti, poi nella casa del cinema. Ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito per tutti gli aggiornamenti. Sì, l'ultimo saluto qui alla casa del cinema Mario Monicelli, in una villa borghese bagnata dalla pioggia. La salma del regista è stata prima portata a rione Monti, dove abitava, con il saluto dei suoi vicini che hanno intonato bella ciao, per poi essere trasportata qui alla casa del cinema, dove da poco è andato via il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ha detto bisogna rispettare l'estremo scatto di volontà. Ecco, sono soprattutto gli amici di una vita a salutare Mario Monicelli, Mario Boldi, Enrico Montesano, Paolo Virsì. E anche la Camera dei Deputati ha reso omaggio al regista scomparso. Walter Veltroni, che è qui in questo momento alla Casa del Cinema, ricorda Mario era un italiano della schiena dritta, mentre i radicali chiedono una riflessione sull'eutanasia. E qui dalla Casa del Cinema a Villa Borghese è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Elisabetta, e noi ci spostiamo all'estero, in Kazakistan, dove al vertice OSCE ha parlato questa mattina il premier Berlusconi. possiamo finalmente dare vita a una vera e propria comunità di sicurezza euro-atlantica ed euro-asiatica, una comunità basata su valori condivisi, una comunità che può prolungarsi nel tempo. Attorno a questo tavolo siedono i rappresentanti di 56 paesi e Astana è quasi al centro di questa immensa parte del mondo. E abbiamo la responsabilità di parlare con i fatti, di indicare obiettivi concreti e raggiungibili e di decidere i meccanismi migliori per conseguirli nel più breve tempo possibile. Così dunque Berlusconi questa mattina. La sua giornata si era aperta con un incontro molto importante con Hillary Clinton, il primo dopo le rivelazioni di WikiLeaks. Intanto ci sono nuovi guai per Assange. Il quadro di questa giornata importante lo facciamo con Gigi Donelli. Gigi. Sì, buongiorno Rita. Ovviamente un incontro delicato, diciamo, soprattutto per Hillary Clinton, che appunto ha avuto a che fare con altri 55 paesi, molti dei quali di fatto ha dovuto rassicurare circa la posizione americana. Insomma, direi che il segretario di Stato oggi raccoglie i cocci di questa devastante sicuramente vicenda di WikiLeaks, devastante soprattutto per la sicurezza della diplomazia americana. Comunque con Berlusconi tutto a posto, la Clinton ha detto è il miglior amico degli americani. Sul fronte dei contenuti legati ancora a questi file di WikiLeaks, quali sono le novità nel mondo, nei vari siti, Gigi? Sì, infatti la rassicurazione è rivolta naturalmente all'Italia, relazioni storiche, come dire, quasi scontate. Viceversa, continuano preoccupazioni significative, soprattutto sul fronte delle armi. Insomma, sappiamo ormai che i leaks, quindi le perdite di fatto di questi documenti sono enormi e quindi continuamente ci aggiornano su dei temi delicati. Quello delle armi riguarda per esempio il Pakistan, che si è sentito in dovere di rassicurare gli Stati Uniti sul fatto che il Pakistan non stia costruendo un arsenale nucleare, che in uno appunto dei dispacci passati sulla rete i diplomatici americani descrivono in maniera molto chiara. Dicono infatti, nonostante la situazione economica catastrofica, il Pakistan sta producendo un arsenale che non ha pari al mondo. Insomma, non una bella immagine, così come l'immagine preoccupante descritta dalla disponibilità da parte iraniani di missili nordcoreani, sono la classe di missili Musudan, che secondo i leaks, secondo appunto alcuni rapporti trapelati, minaccerebbero addirittura l'Europa occidentale. Gigi, e poi c'è questo mistero di Assange. Assange nella notte è stato messo un mandato di cattura internazionale e non si sa dove sia. Sì, in realtà Assange dovrebbe essere nuovamente a casa sua nel Regno Unito, dove non risulta più essersi mosso da quando appunto dopo il periodo svedese, Assange lo ricordiamo è australiano, dopo il periodo svedese è stato raggiunto da un mandato di cattura appunto per una vicenda di violenza sessuale in Svezia. Insomma, lui sarebbe nel Regno Unito e naturalmente sembra oggi che sia grande caccia all'uomo, addirittura il commento del ministro degli esteri Franco Frattini che ha detto secco, spero venga catturato presto, anche se in realtà non proprio tutti sono contro Assange. Per esempio una posizione che vale la pena di segnalare diversa è quella del governo danese, che addirittura ha indicato come, dopo aver cercato documenti circa alcune vicende che riguardano l'esercito danese in Iraq e non averle ottenute, ha chiesto ad Assange direttamente di mettere a disposizione l'archivio, diciamo, danese che riguarda appunto il paese del nord Europa. Grazie a Gigi Donelli per questi aggiornamenti. La cronaca in Italia: sono riprese sotto la neve le ricerche della 13enne bergamasca Yara Gambirasio, scomparsa da Brembate Sopra venerdì scorso. Ieri per tutta la giornata è stato setacciato un cantiere dove è in costruzione un centro commerciale al confine con il comune di Mappello. Carla Bruni Sarkozy, premier dame di Francia, si è detta stupita, sorpresa e riconoscente dopo le aperture del Papa sull'uso del preservativo per ridurre i rischi da AIDS. Oggi nel mondo si celebra la giornata mondiale della lotta all'AIDS e tutto il pianeta si mobilita perché non si abbassi la guardia e si punti soprattutto sulla prevenzione. In Italia il virus infetta una persona ogni 2 ore, ma di questo non si è consapevoli perché ben 6 persone su 10 scoprono di avere il virus solo quando la malattia è conclamata. Nicoletta Carbone ha intervistato durante Essere Benessere Oggi il professor Mauro Moroni, docente di malattie infettive all'Università di Milano e presidente dell'AnlAIDS Lombardia, proprio sui contagi. Sentiamo. Partiamo da un serbatoio di persone sieropositive in Italia che è stimato attorno ai 150.000. Fino a 10-15 anni fa molte persone sieropositive morivano. Oggi, con le terapie che abbiamo a disposizione, la mortalità è diventata bassissima. È limitata a quelle persone che non si curano o che si curano tardi o che hanno una serie di altri problemi per cui i farmaci non possono essere assunti con regolarità. D'altra parte si infettano sulle 5.000 nuove persone all'anno, anche queste sono stime perché dati sicuri non si possono avere. Queste persone vanno ad aggiungersi, ad alimentare il numero di persone sieropositive esistenti. Non essendoci più uscite legate alla mortalità, il vaccino delle persone sieropositive è destinato a incrementarsi. 5.000 persone all'anno sembrano poche, ma in 10 anni sono 50.000. 5 per 1000 meno fondi al settore, cosa ne pensate? Vi abbiamo chiesto oggi in bianco nero, giusto in tempi di rigore finanziario per il 33% dei nostri ascoltatori, sbagliato invece, meglio tagliare altro per la maggioranza di voi, il 67%. E chiudiamo con il calcio. In Italia, lo sapete, c'è in programma lo sciopero dei calciatori per l'11 e 12 dicembre. Dall'Irlanda, dove è in atto una grave crisi finanziaria, invece è tempo di sacrifici per un italiano illustre che lavora proprio a Dublino. Sentiamo. Da isola felice a isola al verde. Parabola difficile quella dell'Irlanda, con la crisi economica che morde e l'Europa che arriva in soccorso con un prestito di 85 miliardi di euro per superare l'esplosione del deficit e del debito pubblico. Tutti chiamati quindi a Dublino e dintorni a fare sacrifici. Impossibile per lo sport chiamarsi fuori. Impossibile poi per Giovanni Trapattoni, 71 anni, CT della Nazionale dei Verdi, uno che tra l'altro è nato il 17 marzo, giorno di San Patrizio, patrono dell'isola dello Smeraldo, non lanciare un segnale. E allora anche Trapp e il suo gruppo di lavoro, comprendente pure l'eroe di Spagna 82 Marco Tardelli, tirano la cinghia. Staff federale ridotto a 12 persone e ingaggio decurtato del 5% su proposta della Federcalcio di Dublino. Il gesto ovviamente vale più della cifra, all'insegna del siamo tutti irlandesi, sperando che presto tornino tempi migliori. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, grazie regia Fabio Cantadori. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.